ci possa aiutare appunto come marchio di fabbrica della compagnia, se così possiamo dire, appunto a riportare il teatro a questa funzione, almeno a questa funzione che secondo noi, secondo la nostra idea, è importante e utile ai fini sociali e culturali, esatto. Ecco. A Roma sarà una data unica, è previsto poi un percorso di questo spettacolo? Beh sì, noi il nostro obiettivo in realtà è cercare di portarlo in più posti possibili, proprio per queste motivazioni dette adesso da Matteo, e cercheremo ecco di avviare un percorso di divulgazione e di messa in scena, anche magari in diverse regioni, perché no? Sì, diciamo che appunto sia noi registi che poi gli altri ragazzi attori dello spettacolo veniamo un po' da tutta Italia, e quindi appunto magari abbiamo la possibilità ecco di portarlo in giro, di farlo conoscere a più persone, e poi perché no di tornare a Roma e replicare, assolutamente sì. Allora, in chiusura ci lasciate dei riferimenti web per saperne di più su questo spettacolo e sulla compagnia in generale? Allora, purtroppo ancora noi una pagina web di qualsiasi tipo, blog o su Facebook o su Instagram o quel che è, non ce l'abbiamo, nostra personale, essendo nati praticamente adesso. Okay. Però grazie alla collaborazione che abbiamo insieme all'Associazione Nazionale Amicizia Italia Cuba, che ha finanziato il progetto e ci stanno molto aiutando e sostenendo in questo progetto, ecco, magari tramite il loro sito lì potrete trovare informazioni più dettagliate. E allora ricordiamo lo spettacolo Guantanamo, errore di sistema. Un saluto e un ringraziamento a Sonia Remorini, Matteo Pantani e Mariano Viggiano, che sono autori e registi dello spettacolo. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, a presto, grazie. Ciao. Gli autori e registi Sonia Remorini, Matteo Pantani, Mariano Viggiano, sul loro spettacolo Guantanamo, errore di sistema, a Roma al Teatro Lo Spazio, venerdì 18 gennaio 2019. L'agenda della settimana teatrale. Con l'attrice Manuela Mandracchia per parlare dello spettacolo Mare Mater, la nave dei bambini. A Roma, al Teatro Vascello, dal 14 al 16 gennaio 2019. Manuela, ben trovata. Ben trovati, grazie di avermi accolto, eccomi qui. Una gran bella storia questa. 14, 15, 16, tra l'altro 14 è un lunedì, quindi un giorno particolare rispetto al teatro. È una gran bella storia, sì, è la storia della nave Asilio Caracciolo, una donna straordinaria, Giulia Civita Franceschi, ci mette a capo, viene insignita di questo ruolo, ma insomma è a capo di questa nave asilo e raccoglie tutti i ragazzi di strada di Napoli. Lei ci tiene a non chiamarli scognizi, non vuole che vengano chiamati scognizi, perché dice una delle battute dello spettacolo è una parola simpatica, pittoresca, ma voi eravate bambini come tutti gli altri, perché questa donna cerca di crea un metodo che si chiama metodo Civita e che assomiglia per dei versi un po' a quello della Montessori, che sicuramente lei conosceva, e tra l'altro sono dello stesso periodo storico, e quindi governa questa nave e cerca di sviluppare un metodo che dia dignità a questi bambini che vengono da una realtà tremenda, abusati, senza famiglie, spinti alla delinquenza, con condizioni di vita precarie, insomma ci possiamo immaginare, la nave va avanti dal 1913 al 1928 e accoglie 700, lei riesce a accogliere su questa nave, e il verbo accogliere non lo uso casualmente, sulla nave questi bambini che di diverse età, o i più grandi insegnano ai più piccoli, non ci sono né premi né castighi su questa nave, ognuno deve lavorare e trovare la dignità attraverso il lavoro, un lavoro che sia necessario ma fine a se stesso, imparano i mestieri della pesca, ma non solo i mestieri della pesca, imparano anche a capire quali sono i loro talenti, quali sono le loro missioni, alcuni di questi diventano la maggior parte certo pescatori marinai, ma anche imprenditori, anche professori di latino e di greco, cioè riescono a, da quelli che vengono considerati quelli che hanno meno, i figli della plebe allora, il meno del meno, e riescono invece a trovare se stessi, con, tra l'altro, rispettando anche il loro passato, cioè senza dimenticarlo, c'è tutto il recupero della loro storia, della loro memoria, senza vergognarsene, ma facendolo diventare forza, un motivo di rilancio, di sviluppo, di nascita, di rinascita, che è uno dei verbi ancora usati, dei sostantivi usati in questo spettacolo. È uno spettacolo particolare perché appunto è il racconto di questa storia, e la produzione di Casa del Contemporaneo di Napoli, e era uno spettacolo che aveva già debuttato al Festival di Napoli 2 anni fa, una situazione all'aperto. Questa volta, quindi al bacino, sul porto, c'erano barchette che arrivavano, era quindi una situazione molto particolare. All'interno abbiamo invece il regista Fabio Cosifoglia, insieme agli altri attori Luca Iervolino e Gian Piero Schiano. Il tentativo è di raccontare noi questa storia insieme però anche alle fotografie, le immagini di questi caracciolini, della nave caracciolo, del tipo di lavoro che veniva fatto, perché questa signora Civita ha anche mantenuto un grosso archivio che viene poi conservato a Napoli dal Museo del Mare, dal professor Musseri, dalla professoressa Selvaggio, un grande archivio di fotografie, perché faceva anche un lavoro scientifico questa donna, li fotografava la vita a bordo, questi bambini il primo giorno in cui salivano e poi come continuava la loro vita, e quindi noi abbiamo una testimonianza straordinaria, e quello che cerchiamo di fare è di ridare vita a questo grande archivio anche durante lo spettacolo, per cui ci saranno delle proiezioni, e questi bambini sembrano uscire dal nero del teatro e sembrare vivi, e tutto questo l'operazione poi passa un po' lontano, il tentativo di coinvolgere anche delle associazioni che lavorano con i bambini, per cui a Roma ci sarà un coro Ciprix, a Napoli invece un altro coro, e nelle città in cui andremo il tentativo è proprio quello di ogni volta stabilire dei rapporti con cori e bande di bambini che lavorano in ogni città. Ecco, questo è un pochino tutto. Manuela, questa esperienza per quanti anni andò avanti? Questa esperienza andò avanti per 15 anni, dal 1913, immaginiamoci che c'è di mezzo tutta la Prima Guerra Mondiale, e si arriva al fascismo. Il fascismo chiude questa esperienza, questa nave. Ci sono varie navi in Italia, sulla scia delle school ship inglesi, cioè in queste navi venivano recuperati appunto l'infanzia un po', diciamo, pericolante, e c'erano a Genova, c'erano a Venezia, a Bari, a Napoli. Questa però nel 1928 viene chiusa, perché il metodo che la Civita sviluppa è un metodo che è contro proprio i dettami del regime, cioè obbedienza, tutte le stesse cose, i balilla, tutti inquadrati. Lei invece spingeva all'autonomia, all'indipendenza di pensiero, all'aiuto reciproco, né premi né castighi, tutto il contrario di quello che era l'ideologia fascista in quel periodo. E quindi nel 1928 viene chiusa, gli vengono sottratti i bambini, la nave tolta di mezzo, e cresceranno il numero dei balilla, questi bambini. È un'esperienza però, cioè questa è una donna, immaginiamoci allora che cos'era, una donna che doveva governare, una donna in realtà con una grande forza, una grande intelligenza, che cercava di gestire economicamente tutta la situazione. Immaginerà lei nel suo mondo, immaginerà anche di poter fare una scuola poi anche per le bambine, una scuola di pesca anche per le bambine, quindi no, ci si vanno, non glielo faranno fare, poi si sposterà sull'agricoltura, dicendo che il lavoro, secondo lei, il lavoro è quello che anche a dei bambini che crescono può rendere dignità, può farli essere consapevoli di quello che sono attraverso il lavoro, che poi diventeranno pensieri pedagogici poi portati avanti e a oggi, a tutt'oggi. Ora c'ha un riverbero sulla quotidianità e sulla contemporaneità che è straordinario. La madre del mare, la nave, questi bambini sulla nave, sul mare, trovano riparo. Erano sprofondati nella terra, sulla terra erano sprofondati, e erano naufragati sulla terra, e invece sul mare trovano accoglienza. Ecco, questi termini, queste parole risuonano, no? Certo. Oggi certo. Ci risuonano, ci tornano alle orecchie, bambini accolti sul mare, e gli ridanno una seconda vita sul mare, bambini rifiutati da una parte, bambini invece che sul mare trovano la loro strada. Solo a sentirla veramente è una storia, speriamo, cioè il nostro spettacolo per questo, un grande racconto, e speriamo che insomma il pubblico con noi entri dentro questa storia e possa bella, ecco, poi sai, ogni tanto dici, ma ho voglia di farmi raccontare una storia bella. Sì, sì. E allora ricordiamolo, questo appuntamento con Mare Mater, la nave dei bambini, sì, a Roma. 15, 16 al Vascello e poi a Napoli, invece il 25, 26, 27 gennaio e 1, 2, 3 febbraio alla Sala Soli. Benissimo. Allora un saluto e un ringraziamento all'attrice. Grazie. Manuela Mandracchia. Manuela, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Crepi il lupo. Ciao. L'autrice Valentina Esposito presenta lo spettacolo di Forte Apache Cinema Teatro Famiglia a Roma, Teatro India, dal 16 al 20 gennaio 2019. Ciao Federico, eccomi. Eccoci Valentina. Allora, ci racconti un po' tutto di questo spettacolo? Guarda, questo spettacolo oggi intanto era il debutto, quindi è stata la prima e avevamo questa prima proprio a ridosso della partenza di Marcello, quindi ti puoi immaginare l'emozione con la quale siamo andati in scena, abbiamo festeggiato con lui tutto questo meraviglioso viaggio che abbiamo cominciato insieme, perché quando abbiamo cominciato abbiamo buttato, come si dice, il cuore oltre la montagna, non sapendo dove saremmo arrivati, e questa idea che comunque Forte Apache possa essere un luogo di formazione continua per gli attori, una specie di casa, no? Dalla quale entrare e uscire, poi fare incursioni nel mondo cinematografico, e appunto per questo poi continuano a venire da noi registi, aiuti registi, in qualche modo per rientrare in contatto con una forma artistica molto molto molto vicina alla vita, no? E questo spettacolo anche è un po', è molto, diciamo, restituisce l'archetipo della famiglia, le relazioni conflittuali all'interno della famiglia, questa struttura stabile ma allo stesso tempo contraddittoria, nel luogo dell'amore assoluto ma anche il luogo nel quale le personalità si scontrano e nello scontro si formano ovviamente, no? Quindi è questa relazione tra il padre e il figlio che si ripercuote in tre generazioni, e Marcello è il nonno, detto Hitler per il suo autoritarismo, e Giancarlo Porcacchia, che ti ricordava Marcello poco fa, è figlio di Hitler, ma su questo palcoscenico si confrontano i vivi e i morti, quindi la questione anche anagrafica viene completamente bypassata nel contesto di una cerimonia nella quale si riuniscono un po' tutti di nuovo, si incontrano e si scontrano ancora una volta. Tutto un testo molto duro, molto violento, che ha preso anche molto molto molta vita, molta sostanza, come tu sai, come lavoro io, dal materiale biografico degli attori, che poi ho inserito comunque in una cornice poetica che fosse comunque trasformativa di questo, ma si sente proprio che i piedi stanno ben piantati a terra mentre loro appunto portano avanti il testo, e questo ha avuto oggi, guarda, una forza e una straordinaria. Io non potevo credere, di fronte a noi c'erano 400 ragazzi hanno seguito la vicenda, si è creata una magia, ecco, posso dire che stamattina c'è stata proprio una magia in teatro. Sì. Valentina, la scelta del titolo? Famiglia, famiglia, ci sono tutti, cioè, ci sono i nonni, ci sono i figli dei figli, c'è lo scontro, è proprio una restituzione del tema greco antico, no? Le colpe dei padri ricadono sui figli, e quindi è proprio come dire, una rappresentazione che vorrebbe tanto più radicata nelle biografie personali degli attori quanto più universale possibile delle dinamiche relazionali interne. E infatti è successo questo, dai ragazzi più giovani agli adulti che comunque oggi sono accorsi, perché dopo il premio di Marcello abbiamo avuto la coda fuori dal botteghino e non sapevamo più dove mettere le persone. Sì, è stato un momento stato che noi avevamo comunque immaginato una replica riservata agli studenti nell'ambito di un progetto di educazione alla legalità che portiamo avanti dall'inizio dell'anno, sostenuto dal Fondo Sociale Europeo, insomma non ce la so far lunga, comunque di integrazione, di educazione alla legalità fra ex detenuti e studenti, e quindi questa doveva essere la replica riservata agli istituti superiori, ma ovviamente si sono, come dire, si è sparsa la voce. Esatto, si è sparsa la voce, non siamo più riusciti a contenere il pubblico e qui

sono diciamo sugli 8 minuti più o meno per uno, quindi una serata in genere sono direi una decina di pezzi, quindi un'oretta e mezza più o meno, sì, sì. No, un'oretta e mezza. Cosa ti piace sì. di più di Ugo? Ma a me la cosa che piace diciamo è sia che non ero, diciamo, essendo un'attrice sono stata abituata a non fare mai a fare questo, diciamo Ugo è fondamentalmente diciamo più che non è teatro, è più che altro uno stand up comedy, quindi c'è proprio il rapporto con il pubblico, uno guarda il pubblico, lo guarda proprio negli occhi, parla con un microfono, quindi ci sono tutti elementi che ai quali non ero abituata, e quindi la cosa che mi diverte di più è in realtà proprio il fatto che ogni volta c'è un rapporto diretto col pubblico, perché proprio lo guardi, quindi è molto, sempre molto interessante. E anche il fatto di scrivere, perché io mi scrivo in genere i miei pezzi, quindi anche il fatto di scrivere un pezzo e poi farlo molto semplicemente, senza insomma, provandolo e vedendo come va. E collettivamente che lavoro fate? Com'è l'attività prima dello spettacolo? Diciamo che ci sono un gruppo di diciamo, alcune di noi che sono quelle, tra cui insomma non alcune di noi che l'hanno un po' diciamo creato e che sono quelle che un po' mandano avanti, fanno più parte del lavoro e quindi si vedono prima, insomma, prima per decidere i vari pezzi nella serata, che noi abbiamo però fondamentalmente tutte quante leggiamo i pezzi un po' di tutto, abbiamo un grande scambio, cioè di insomma, leggiamo i testi e quindi si sanno più o meno i testi che ci sono, magari chi vuole fare il testo di qualcuno e chi insomma è disponibile e chi no, e quindi ci si sente e poi in genere magari ci vediamo singolarmente con qualcuno per provare un pezzo, per aggiustarlo, quindi in genere si decide in gruppo, però poi ci vediamo insomma magari in due, in tre per sistemare un pezzo e poi ci si vede lì, non è che si fa una prova ovviamente sì. di tutto quanto, lì ci si vede e poi si fa. E nello scrivere i tuoi a dove prendi ispirazione? Non lo so, nel senso in genere sono inizi mi vengono, in genere inizio così scrivo, c'è cioè un tema magari, una cosa che in genere cose che mi succedono o che penso o che mi capita di vedere, e spesso diciamo è proprio una cosa minima e poi magari a poco ci rimetto mano e quindi accumulo pezzetti e poi nasce un pezzo intero. Qualche volta capita che, ma molto raramente, che magari ho tutta un'idea già formata e lo inizio a scrivere e finisce il pezzo, però è più raro. O magari capita che qualcuno lo legge, o qualcuno meno lo legge, dice guarda, però cambia questa cosa, insomma, e uno poi modifica, inserisce altre cose. Ti piace questa dimensione collettiva? Sei abituata già a lavorare in gruppo o è la prima volta? No, sono abituata, però insomma a lavorare diciamo collettivi di teatro, compagnie, però questa dimensione è diciamo è un po' diversa, perché comunque è bello il fatto che ci si ritrova lì spesso senza essersi viste prima, diciamo si rincontra ogni volta, perché poi molte persone sono sempre le, insomma sono le stesse, però ci sono anche persone nuove ed è bello, perché in realtà è vero che il tuo pezzo alla fine dura molto poco, però comunque è, cioè, non è che dura, cioè per me dura un'ora e mezza, perché comunque ti vedi tutti gli altri, alcuni magari li hai già sentiti, altri no, e è una dimensione che secondo me è molto, anche insomma aiuta anche per, insomma non fa venire almeno a me particolare, non lo so, ansia o palcoscenico, perché comunque è una dimensione in cui stai con gli altri, ascolti e aspetti che arrivi il tuo pezzo ascoltando quelli degli altri. Bene, allora ricordiamo l'appuntamento con Ugo volume 9 a Roma, al Monk, venerdì 18 gennaio 2019. Un saluto e un ringraziamento all'attrice Valeria Belardelli. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Bravi, a presto. Ciao. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Con il nostro Simone Nebbia di Teatro e Critica per l'agenda della settimana teatrale romana. Ciao Simone. Ciao a tutti, eccoci, buongiorno, buon pomeriggio. Tutto bene Simone? Benissimo, assolutamente, qui abbiamo ricominciato la grande, insomma, il teatro a Roma sta piano piano trovando una strada. Non è semplice perché, insomma, ripeto, siamo ancora un pochino commissariati, tra virgolette, perché non abbiamo un direttore, però, insomma, forse sta piano piano per arrivare qualche soluzione, vedremo a breve. E sul fronte spettacoli? Allora, il fronte spettacoli è quanto mai vivo, vediamo un po' che cosa ci offre. Direi che ti porto prima di ogni cosa al Teatro Lo Spazio per vedere un lavoro 16 e 17 di gennaio, quindi domani e dopodomani, con Venere e altri disastri, alla compagnia di Marmalieri, che presenta questo lavoro di con Dusca Visconti. Ed è un lavoro piuttosto intelligente ed ironico, che insomma si riferisce un po' ai miti e a quello che i miti possono essere utili oggi. Quindi ci porta all'interno di questa Venere dall'inesauribile carica energetica, con molta, molta ironia. Quindi andremo al Teatro Lo Spazio per vedere altri disastri con la compagnia di Marmalieri 16 e 17 di gennaio. Poi, allora, abbiamo già detto che al Teatro di Roma, Don Giovanni, al Teatro Argentina, con la regia appunto di Valerio Binasco. Da oggi invece il Teatro India, fino al 20 gennaio, c'è la regia di Roberto Bacci per la Fondazione Teatro della Toscana, il Teatro Era di Pontedera, che Bacci dirige ormai da quando era bambino. Si tratta appunto di quasi una vita, scene dal chissà dove, così mi viene segnalato, ed è una scrittura dello stesso Bacci assieme a Stefano Geraci. Mi piace ricordare una cosa, insomma, intanto che in scena ci sono Dario Marconcini e Silvia Pasello, insomma degli attori di storia e di grande esperienza, ma soprattutto gli interventi sonori sono di Ares Tavolacci, che è un produttore musicale, bassista, musicista straordinario, che insomma ha fatto la storia del rock progressive italiano ed europeo. Quindi quasi una vita, scena dal chissà dove, è un congedo. Dopo aver attraversato due vite, due esistenze, gli spettatori andranno appunto nella loro memoria, disperdendosi all'interno della memoria della vecchiaia di alcuni dei protagonisti. Quindi 15-20 gennaio, Teatro India per quasi una vita. Carrozzeria Orfeo presenta, mi sembra, l'ultimo capitolo, se non sbaglio, della trilogia, mentre invece nella Sala Grande Miseria e Nobiltà, fino al 20 gennaio, è la regia di Luciano Melchionna. Edoardo Scarpetta presenta questo testo, insomma, viene presentato di Edoardo Scarpetta questo testo classico, con in scena Lello Arena. Allo Spazio Diamante, rock musical statunitense, con la regia di Dario Avecone e Fabrizio Checcacci, con questo Murder Ballad, che è appunto un musical, sta in scena 17, 18 e 19 gennaio, ideato e scritto da Giulia Jordan per la prima volta in Italia, e dopo insomma che il grandissimo sudamericano successo nella produzione off-Broadway degli ultimi 20 anni. Quindi questo allo Spazio Diamante 17, 19 gennaio. Poi al Teatro Studio 1 andremo a vedere questo spettacolo vincitore del Premio Nazionale delle Arti 2018 dalla sezione regia, 17 e 20 gennaio, per Le Serve di Jean Genet, con l'adattamento e appunto la regia di Michele Eburnea e Caterina Dazzi. La produzione Matt Off. Questo è il lavoro che andremo a vedere al Teatro Studio 1, Le Serve appunto è un testo che racconta di Le Serve Claire e Solange all'interno di un appartamento borghese dove meditano l'assassinio della padrona. Teatro Studio 1, 17-20 gennaio. Poi ancora, abbiamo già detto, del Teatro Vascello con Manuela Mandracchia in Mare Mater, abbiamo detto sì della Città dell'Altra Economia, ma non siamo andati invece al Macro Asilo di Via Nizza, la sede del Macro, dove ci sarà questa performance Negri, spettacolo per bianchi, ideata e diretta da Luigi Morra, prodotta da Eternit, e sarà appunto in scena per due giorni, 19 e 20 gennaio, ma in più orari, essendo una performance, insomma, ci saranno più orari alle 12, alle 16 e alle 18, all'ingresso gratuito al Macro. di Enizza il macro asilo. Sì, ancora al Teatro Studio 1 avevo dimenticato un attore, Giuseppe Cortellini con 84 gradini, uno spettacolo che vince il premio speciale off al Roma Fringe Festival del 2014, poi insomma ha girato un po', ed è un monologo molto interessante, è un po' cupo di Giuseppe Cortellini, lo vidi, ed è un ottimo lavoro. Le musiche sono di Francesco Leineri, che è un ottimo giovane musicista molto, molto ricercato. Al Comedoff invece mi segnalano da questa sera il lavoro Ascolta Israele, diretto da Valeria Freiburg, sarà in scena 16-18 gennaio e poi 23-25, e si tratta di una scena spoglia dove gli attori narrano delle testimonianze come prigionieri del campo di concentramento di Bolzano, con molta intensità e senza retorica, tutto accompagnato da canti originali del popolo ebraico, quindi al Cometa Off del 16 gennaio per questo Ascolta Israele. Che altro dirti? Forse portarti nell'ultimo di questi teatri per l'ultimo spettacolo che voglio andare a segnalare, ovvero sia il Teatro Biblioteca Quarticciolo, dove questa settimana 19 e 20 gennaio Lorenzo Deliberato con Barbara Folchitto e Marco Guaglia presenta il terzo capitolo dell'Holidays, che si chiama Childhood, ed è appunto una trilogia, l'ultimo capitolo di questa trilogia, un percorso drammaturgico durato 3 anni per Lorenzo Deliberato, che ricordo con delle regie e dei lavori molto interessanti negli anni passati. Si tratta di un lavoro che si concentra sul rapporto di coppia di natura affettivo, familiare, fratello e una sorella, che dopo tanti anni sono costretti a trascorrere del tempo insieme, mettendo a confronto le proprie vite. 19-20 gennaio, Childhood, Teatro Biblioteca Quarticciolo. E per ora, Federico, per oggi, e questo è tutto. Un abbraccio, Simone, alla prossima! Ciao a tutti! Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 14, con interviste su spettacoli, festival e rassegne in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.